Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Per quali motivi da circa un ventennio il motore dell'economia italiana si è inceppato? E soprattutto cosa può e sa fare l'Italia per ripartire? Se è vero che stiamo lentamente uscendo dalla grave fase recessiva che si è abbattuta con particolare violenza sulla nostra economia dal 2008 al 2014, è altresì importante indagare sulle cause profonde che hanno determinato la sostanziale stagnazione già evidente negli anni precedenti alla crisi e provare a tracciare la rotta per gli anni a venire. Ci aiuta a saperne di più il libro appena pubblicato dalla Terza, scritto da Anna Giunta, docente di politica economica all'Università Roma III, e da Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia. Titolo del volume: Che cosa sa fare l'Italia? La nostra economia dopo la grande crisi. Salvatore Rossi è ospite, il nostro ospite questa sera. Grazie per aver accettato il nostro invito, dottor Rossi. Grazie a voi. Il nostro è un paese, si legge nel libro, anzi diciamo un paese, si legge nel libro, è ciò che sa fare. Gli italiani un tempo hanno saputo eccellere, ora il genius loci si è appannato. E allora vale la pena di capire se e in quali modi si può rimediare. Ascoltiamo insieme, dottor Rossi, questo passaggio di un paragrafo del libro che ha un titolo emblematico, La guerra dei sette anni. L'economia italiana si è ritrovata nel 2015 come dopo una guerra. Non una guerra del passato, per nostra fortuna, ma una di queste guerre moderne, virtuali, in cui capannoni, uffici, posti di lavoro possono vaporizzarsi con il clic di un mouse. Rispetto a sette anni prima, producevamo quasi un decimo in meno. Nell'industria la contrazione era del 17%, nelle costruzioni di oltre il 30%. Si stima che l'apparato manifatturiero abbia visto scomparire in quegli anni un sesto della sua capacità produttiva. La distruzione netta di posti di lavoro è stata di quasi un milione. Il complesso delle imprese italiane ha investito nel 2014 un terzo in meno che sette anni prima. Le famiglie hanno speso in termini reali l'8% in meno. Le esportazioni sono a stento rimaste costanti. I sette anni di crisi hanno raddoppiato la disoccupazione ed eroso il PIL pro capite di 11 punti percentuali. E questa è una sorta di bollettino di guerra, dottor Rossi, ma facciamo insieme un passo indietro. Perché la nostra economia era ferma ancor prima dell'esplodere della grande crisi? Questa è una lunga storia, in parte dimenticata. L'Italia si è fermata 25 anni fa, un quarto di secolo fa. Sì. E si è fermata, secondo una interpretazione ormai egemone, ormai condivisa da molti, fondamentalmente perché il suo apparato di imprese, quello che produce, non ha saputo adattarsi ai due grandi mutamenti che hanno cambiato il corso degli eventi in tutto il mondo, e cioè la rivoluzione tecnologica, quella che ha fatto passare dal paradigma elettrico che aveva dominato per quasi tutto il Novecento a quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'IT, e il secondo fenomeno conseguente al primo, quello che va sotto il nome di globalizzazione, la mondializzazione degli scambi, dei mercati, quella cosa tra l'altro che è adesso invece nel mirino di molti paesi. Le imprese italiane non hanno saputo adattarsi a questo, se non in parte, se non tardi, perché fondamentalmente perché ereditavano dai decenni passati una struttura, una morfologia fatta di piccole, piccolissime imprese. Che è la caratteristica della nostra economia, poi, che conosciamo bene. Che è la caratteristica molto ben nota della nostra economia. Normalmente se ne parla in termini, come dire, statici, come di una fotografia dell'esistente. Quello che conta non è questo, è la dinamica, è il film, non la fotografia, non l'istantanea. Cioè alcune imprese, non tutti e 4 milioni di imprese che noi abbiamo, ma alcune, quelle che hanno concreta possibilità di fare un salto dimensionale, non lo fanno, non salgono su questo ascensore di crescita, neanche quando, ripeto, ne hanno la concreta opportunità, perché per mille motivi, mm-hmm. alcuni dei quali hanno a che fare con la psicologia degli imprenditori italiani tipici, medi, ma molti dei quali hanno a che fare con gli ostacoli messi dall'ambiente circostante, giuridico e normativo, e regolamentare, prassi amministrativi. Certo. Sì. Ecco, nel libro sono riassunte alcune proposte, nell'epilogo in particolare. Che fare dunque? Su quali punti di forza puntare per rimettere in moto questo motore inceppato della nostra economia? Guardi, nel libro ci poniamo con angoscia questo tema, ovviamente, del che fare. Sul che fare ci esercitiamo in tantissimi da molti anni, come lei ricordava, da ben prima della crisi finanziaria globale e della recessione che ci ha colpiti di conseguenza. Da qui nasce il tema delle politiche strutturali, quindi delle riforme, delle mille riforme della società italiana. Noi diciamo due sono, come dire, le madri di tutte le riforme, quella dell'ordinamento giuridico e quella del sistema educativo. Ordinamento giuridico, badi bene, non giustizia, non macchina giudiziaria, è una cosa molto più generale, molto più ampia. Mm-hmm. Poi nel libro si cita il caso di tre aziende che avete visitato nell'autunno del 2015, una al nord, due al sud, che vengono inserite in quella sorta di terra di mezzo che voi definite in mezzo al golfo. Quindi tre aziende che hanno attraversato la crisi senza troppi danni. Possono essere qualificate come rappresentative della nuova catena globale del valore, in sostanza della nuova globalizzazione? In parte sì e in parte no. Sono tre imprese di successo, quindi loro fanno profitti, fanno reddito, non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio che abbiano attraversato la crisi senza grandi danni, sono al tempo stesso una piccolo-media, l'altra piccola, l'altra piccolissima. E faccio riferimento agli standard internazionali, non tanto a quelli statistici, in particolare italiani, che sono, diciamo, scalettano il tutto verso il basso. Tutte e tre hanno un problema in comune: non sono abbastanza grandi, e quindi si chiedono perché, e noi ci chiediamo perché. E certo, quindi c'è sempre il solito problema della dimensione del nostro apparato produttivo. Voi appunto citate tra le riforme più importanti, le madri delle riforme, lo ascoltavamo, l'ordinamento giuridico e il sistema dell'istruzione in senso lato. È anche vero che il nostro paese ha bisogno anche di altre riforme, ad esempio quella della pubblica amministrazione, che è stata in parte avviata già con il governo Renzi, ma che stenta a decollare. E anche questo è un aspetto, insieme al sistema fiscale, cioè evidentemente c'è da lavorare molto per rilanciare la nostra economia. Indubbiamente sì. Tenga conto del fatto che la riforma della pubblica amministrazione è in un certo senso parte del tema generale dell'ordinamento giuridico, quindi del sistema di norme che regolano tutta la società, i comportamenti di tutti gli individui, in particolare quindi del settore pubblico nei suoi rapporti con i cittadini. Anche lì diciamo, è facile pigliarsela con il burocrate. Il burocrate applica, a volte stupidamente, a volte ciecamente, le leggi, le norme che ci sono. E con le norme che dobbiamo pigliarcela, è lì che dobbiamo andare a vedere se ci sono gli incentivi giusti e i disincentivi giusti nei confronti degli impiegati pubblici, ma anche dei cittadini. Molto spesso, dottor Rossi, ci si chiede se riusciremo mai a crescere a ritmi quantomeno soddisfacenti, perché sappiamo che dall'uscita della crisi i tassi di crescita del nostro paese sono abbastanza da zero virgola. Lei pensa che questo possa avvenire in un, come dire, orizzonte ragionevolmente breve? Guardi, io vengo a volte tacciato di ottimismo, e quindi vengo indicato come quello che vede il bicchiere sempre mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, secondo me è l'atteggiamento giusto da tenere, certezze non ce n'è. Certamente l'Italia, tutta l'Italia, la sua società, prima ancora che la sua economia, sono a un punto molto delicato. Ancora è possibile riprendere un sentiero di crescita e di sviluppo sostenuto, quindi non lo zero virgola a cui lei fa riferimento. Non è affatto scontato, è difficile, bisogna mettere in atto i comportamenti e le politiche giuste, non è impossibile. Infatti, da questo punto di vista, l'ultima domanda, dottor Rossi, nell'epilogo voi ricordate che da molti punti di vista l'Italia non è la Grecia, per fortuna bisogna dire, noi abbiamo dei punti di forza, certo un grande debito pubblico, ma sostanzialmente ce la possiamo fare. Sì, io penso che ce la possiamo fare, che non è detto, non è detto che ce la facciamo, però ce la possiamo fare proprio perché in fin dei conti, come diceva lei, ripigliando uno dei leitmotiv del nostro libro, un paese, una comunità, un popolo, in fin dei conti sono ciò che sanno fare, e noi italiani sappiamo fare un sacco di cose. I greci, con tutto l'affetto e il rispetto per quel popolo e per quel paese, ne sanno fare di meno, c'è chi ne sa fare di più di noi, ma noi comunque sappiamo fare molto. Benissimo, tante grazie dottor Rossi per essere stato con noi questa sera e di aver illustrato ai nostri ascoltatori i temi portanti di questo importante libro che si chiama Che cosa sa fare l'Italia, la nostra economia dopo la grande crisi. Buona serata e grazie ancora. Grazie a voi tutti per l'invito, buonasera a tutti quanti.